Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Buona giornata, gentili ascoltatrici e gentili ascoltatori, ben ritrovati. Questo è Nessun luogo è lontano, il programma che allarga gli orizzonti e getta uno sguardo a quello che accade al di fuori dei nostri confini. Vi ricordo la squadra di Nessun luogo: Antonio Talia, Eleonora Aragona, Silvia Mannati a confezionare con me questo programma e Andrea Roccabella che gli darà, come ogni giorno, musica e ritmo. Vi ricordo anche le coordinate per interagire con noi, il che vuol dire domande, commenti o suggestioni, anche tematiche che vorreste fossero affrontate nelle prossime settimane di programmazione di Nessun luogo è lontano. 348 e me lo sono dimenticato, va bene, ve lo dico tra pochissimo. Twitter Nessun luogo 24 oppure Giampaz, Facebook Nessun luogo lontano trattino radio 24. 349, non 348, 349 238 6666 è il numero sia per gli SMS che per i WhatsApp. Allora, come dicevo, è stato un weekend estremamente intenso dal punto di vista delle notizie che arrivavano dagli esteri su tutte, la battaglia per Aleppo, e da lì io parto. This is the scene in Aleppo where, after days of intense fighting, Syrian rebels claim they finally broken through a month-long government siege. Dopo oltre un mese di assedio, forze ribelli siriane hanno iniziato sabato, due giorni fa, l'attacco appunto alla città di Aleppo. Secondo diverse fonti, i ribelli hanno preso larghe porzioni a sud-ovest della città, strappandole alle forze lealiste a Bashar al-Assad, e approfittando poi di quella breccia, volontari e soccorritori hanno portato aiuti ai civili, riuscendo poi a ricongiungersi ad altri battaglioni di miliziani che erano isolati. Poi in realtà, a ben vedere, e lo scopriremo anche tramite alcune testimonianze in diretta da Aleppo, non sono riusciti i volontari e soccorritori a portare grosse quantità di aiuto, più che altro una prima breccia piuttosto simbolica. Perché? Perché la risposta dell'aviazione russa e siriana non si è fatta attendere, e fin dal mattino raid aerei hanno bombardato le nuove posizioni ribelli. Ovviamente, come immaginate, si contano diverse decine di vittime. La battaglia per Aleppo, come già in passato, rischia di essere un importante elemento per l'intero conflitto siriano. Di questo ci occupiamo in questa prima pagina di Nessun luogo lontano, e lo facciamo con un giornalista che è molto esperto di Siria perché l'ha frequentata più e più volte, Daniele Raineri del Foglio. Buongiorno e ben ritrovato a Nessun luogo lontano, Daniele. Buongiorno a voi. Allora, la prima domanda è questa: cosa significa, ma in realtà è una domanda che ci facciamo da anni, cosa significa per la Siria la battaglia di Aleppo? Beh, diciamo che su Aleppo si gioca quasi tutta la guerra siriana. Aleppo è la città più popolosa della Siria ed è diventata un simbolo. Paradossalmente Aleppo è stata una delle ultime città siriane a entrare in guerra, proprio perché si era creata questa atmosfera. Voglio dire, in Siria si pensava che la violenza non potesse toccare proprio la capitale, diciamo, del commercio, insomma, così simbolica della Siria, sì, città più popolosa. E poi invece Aleppo è diventata, diciamo, entrata in guerra, e dal luglio del 2012 questa situazione è contesa fra le due forze. Perché è così difficile prendere e poi tenere Aleppo? Ma diciamo perché entrambe le forze non hanno la capacità risolutiva di vincere la guerra. Entrambi i fronti, dico entrambi per semplificare, in realtà i fronti sono composti da centinaia di fazioni diverse su entrambi i lati. Sì. Entrambi i fronti non hanno la capacità di prevalere sull'altro in modo definitivo, ed è per questo che la guerra siriana si trascina in questo modo agonizzante. C'è da dire che questa avanzata dei gruppi armati che si oppongono al presidente Assad conferma ancora una volta che l'esercito, che si parla di esercito siriano, ma l'esercito siriano non c'è più a tenere le posizioni. Ci sono gli stranieri che sono arrivati ad aiutare il presidente Assad, è arrivato Hezbollah, i libanesi, i consiglieri, sì, militari iraniani, l'aviazione russa. ma io quello che vedo è che tutti si stanno lamentando del fatto che l'esercito siriano, che un tempo erano eserciti di potenze del Medio Oriente, non sta riuscendo a tenere le posizioni e infatti non sono riusciti a chiudere l'assedio su Aleppo, nonostante un appoggio aereo che è devastante e molto intenso. Sì, hai detto un paio di parole, Aleppo, città agonizzante. Abbiamo raggiunto Ibrahim al-Sabaga, che è un francescano e parroco della cattedrale latina appunto di Aleppo, e ascoltiamo la sua breve ma drammatica testimonianza. Dopo gli sviluppi delle ultime ore siamo veramente, ci sentiamo in un momento molto molto cruciale, sentiamo anche grande difficoltà, un momento cruciale perché continuano i bombardamenti in modo fortissimo, arrivano le notizie di un avanzo dell'esercito ma poi un ritiro, un avanzo di queste milizie che combattono e anche del loro ritiro in diversi luoghi ad Aleppo Ovest e anche attorno ad Aleppo. La gente è soffocata, soffre molto, è arrivata l'acqua per 2 giorni ma poi è stata interrotta, non sappiamo fino a quando, mancavano fino a poche ore, mancavano anche alimentari per la chiusura della strada principale Aramuse. Invece ultimamente abbiamo sentito in queste ultime ore che l'esercito ha aperto una strada dal sud di Aleppo che continua un po' verso Damasco. E questa è la testimonianza di padre Ibrahim al-Sabag, un francescano ed è alla cattedrale latina di Aleppo, e faceva riferimento a quella linea di riferimento che va a sud, che è quella invece lealista. Daniele Raineri, in un conflitto ovviamente conta tanto la prima linea, ma conta tantissimo anche la logistica, cioè come quella prima linea viene rifornita. E la battaglia di Aleppo non smentisce, no, questa regola generale. Si è tanto lavorato dal punto di vista militare proprio sul rifornimento delle prime linee. Ah no, certo, c'era il vecchio detto napoleonico che sosteneva i dilettanti parlano di strategia e i professionisti parlano di logistica. Perché in effetti è proprio questo che sta succedendo a Aleppo. Che l'esercito siriano o diciamo tutte le forze leali tengono il presidente Assad erano riuscite a tagliare la via di rifornimento che da fuori Aleppo portava dentro la città ed era la strada più a nord. E cosa è successo invece? Che i ribelli hanno rovesciato la situazione, sono riusciti a crearsi un varco e hanno tagliato, questa volta sono stati loro, hanno tagliato le vie di rifornimento alla parte di Aleppo che è in mano, che è controllata ancora dai lealisti, che non è del tutto isolata adesso, non è completamente accerchiata, però sì. Diciamo io, le forze di opposizione hanno tagliato la via più comoda, perché poi si parla molto, ecco, questa è un'espressione cruciale per quanto riguarda Aleppo e probabilmente la sentiremo sempre di più nei prossimi mesi, di fire control, controllo di fuoco, vuol dire che la mia forza riesce a sparare sulla tua strada e quindi riesce a bloccare, diciamo, per il 90% del tempo il tuo passaggio. Sì. Questa è una cosa strategica, i lealisti avevano il controllo di fuoco sulle strade usate dai ribelli, adesso i ribelli viceversa riescono a sparare sulle strade usate dai lealisti, e quindi a patire questa situazione sono ovviamente i civili che rimangono intrappolati dentro. Sì. Allora, Daniele Raineri, noi abbiamo sentito una personalità religiosa, un prete francescano. Abbiamo raggiunto anche però Zuhir al-Shimale, che è un collega che collabora fra gli altri per Al Jazeera. Sentite come fotografa la situazione. Lots of agencies and media television said that the siege has been broken and, allora, molte agenzie, TV e media hanno detto che in realtà l'assedio non sarebbe stato rotto. In realtà è stato infranto ieri, anche se non sono molti i rifornimenti tra le città, perché la strada tra Ramus e Ahmadi non è ancora praticabile. Ci sono stati violenti scontri in questa zona della città che è stata liberata da poco dalle milizie. Altre zone non sono ancora molto sicure al momento. Si assiste ancora a scontri e bombardamenti, anche con elicotteri, in aree che erano state recentemente conquistate dai ribelli. E questa prima pagina di Nessun Luogo Lontano è punteggiata musicalmente dalle note della SEPO, che è la Syrian Expat Philharmonic Orchestra, che è una formazione che ha debuttato in Germania nell'ottobre del 2015 ed è fondamentalmente composta da rifugiati, sono quasi tutti siriani. L'idea venne a un contrabbassista siriano, Raed Jazbeh, che era scappato a Brema, inseguiva non solo il sogno della pace ma anche quello della musica, e da lì questa formazione appunto di espatriati, quasi tutti siriani, e in particolare vi è stato ed è quella che sentite, proprio quell'esibizione a Londra il 25 giugno scorso. C'è stata una esibizione persino con Damon Albarn, insomma, per dire quanto pop è poi diventata questa formazione. Siamo con Daniele Raineri, inviato del Foglio, esperto di Medio Oriente, la Siria l'ha frequentata parecchie volte. Ti chiederò un commento, perché Zuhair Al-Shimali ha anche detto altre due cose, in parte le abbiamo già toccate. Vi faccio sentire che cosa dice rispetto alle linee di rifornimento. It's open and it's under the control of rebels, but it's not. Le linee di rifornimento sono aperte, sono sotto il controllo dei ribelli. Noi l'abbiamo sentito un paio d'ore fa, tenete conto anche di questo, è la situazione estremamente fluida, ma non sono percorribili per mettersi in salvo. Probabilmente ci vuole ancora del tempo, nessuno può ancora davvero attraversarle, ci passa solo la gente che va a combattere in prima linea. E quindi già questo ci fa capire un'altra cosa, che l'apertura di un corridoio è innanzitutto, come dire, una funzione militare, per cui chi è armato, chi ha dei dispositivi di protezione può tentare di percorrerla per raggiungere la prima linea. Se invece dobbiamo mettere in salvo i civili o far passare medicinali o quant'altro, quella è una seconda fase, no, Daniele Raineri? Piuttosto sì, più prosaicamente, chi va a combattere, quindi chi è già disposto a sostenere un rischio, chi ha già fatto i conti con l'idea di morire, ecco, può usufruire di quel corridoio. Invece non ci fanno passare i civili, le famiglie, le donne, i bambini, perché diciamo, ecco, non si chiedono abbastanza del fatto che potrebbero attraversare quella zona e restare incolumi. Sì. Daniele Neri, siccome c'è un ascoltatore che certamente, non usando dei francesismi, sostiene i ribelli di cui stiamo parlando sono terroristi, ci aiuti a capire meglio. È vero che ci sono tante formazioni in campo, però iniziamo col dire che ad esempio su quelle formazioni che stanno liberando quella parte di Aleppo non c'è ISIS, per esempio. No, questo è un grande equivoco, pensare che diciamo sia Stato Islamico, ISIS, contro forze del governo. Non è affatto così, però diciamo che non per questo, voglio dire, non c'è soltanto ISIS, diciamo, fra le formazioni estremiste. In questo momento i gruppi armati che hanno rotto l'assedio possono essere divisi in due grandi categorie. Ci sono gli eredi di Al-Nusra, che quindi sono eredi di Al-Qaeda, che due settimane fa hanno assunto un nuovo nome, Jaish al-Sham, l'esercito per la conquista della Siria, e questi sono estremisti e hanno fatto degli annunci, dei proclami minacciando di morte tutti gli alawiti di Aleppo, quindi diciamo la minoranza che sta con il presidente Assad, come rappresaglia per questa guerra. Sì. Ci sono invece dei gruppi armati che non sono estremisti, che hanno già garantito incolumità a tutte le minoranze religiose, hanno detto chiunque entrerà in una chiesa, in una moschea, non sarà toccato, chiunque abbandonerà le armi non sarà toccato, insomma il messaggio è chi si arrende non sarà toccato, noi non siamo macellai a spate di sangue, non siamo qua per massacrare, siamo qua per fondare una Siria senza Stato. Sì, è sì. Ovvio che è difficile capire chi all'interno di questi gruppi armati riuscirà a prevalere, perché per esempio ora, oggi come oggi, sono uniti dal fatto che devono combattere sullo stesso fronte e sono costretti a farlo perché hanno davanti un nemico formidabile, hanno l'unione, diciamo, hanno l'aviazione russa unita ai consiglieri militari iraniani, uniti a Hezbollah, al gruppo armato libanese molto bravo a combattere nella guerra urbana, quindi diciamo che non vanno molto più le sottile. Il grandissimo punto interrogativo è, ok, ma dopo cosa succede? Chi è che la spunta in questo? Prevarranno quelli, gli eredi di Al-Nusra? Prevarranno quelli che invece dicono che non siamo dei macellai, chiunque poserà le armi sarà in collo, non premo nulla? Questo è il motivo per cui stiamo seguendo, diciamo, ora per ora, la battaglia di Aleppo. Certo, e lo dico anche poi agli ascoltatori, se vogliono chiedere lumi, il 349-238-6666, SMS, ma anche WhatsApp, poi Twitter, Nessun Luogo 24, Giampaz, Facebook, Nessun Luogo Lontano, Radio 24, Daniele Reneri segue l'evoluzione della crisi siriana da tempo. È stato in Siria, lo sottolineo perché non è una cosa evidente, non sono tanti i giornalisti che raccolgono fonti di prima mano in quelle zone, lo sapete, uno dei teatri più difficili, più pericolosi in cui lavorare. Detto ciò, riflettiamo sul fatto che è una situazione estremamente composita, bianco e nero, cattivo e buono, diciamo sono categorie che non si addicono al conflitto siriano in questo momento. Daniele Reneri, ti rubo gli ultimi minuti ringraziandoti della tua disponibilità, perché ti faccio sentire un ultimo commento di Zuhair Al-Shimaleh, lo ricordo, è un collega che lavora per Al Jazeera, fra gli altri Middle East Eye, il quale sottolinea la situazione dei civili, lo ascoltiamo insieme. They handle their, you know, daily life. So, you know, when ever since the, you know, the battle of, you know, to liberate the great battle of Aleppo have started. Fin da quando la battaglia di Aleppo è iniziata, i civili hanno cercato di sopravvivere come meglio gli è riuscito. Adesso che si stanno conquistando molte aree del regime e che ci sono questi corridoi umanitari, la gente è contenta. Specie adesso che si è allentata la pressione del regime. In qualche modo si erano abituati ai bombardamenti, anche se i rifornimenti sono scesi progressivamente a zero. E forse, conclude il collega, nei prossimi giorni riusciremo ad averne abbastanza per tutte le famiglie che vivono qui. Allora, 349-238-6666, non avevo dubbi che il capitolo siriano avrebbe scatenato un sacco di commenti. Devo dire che il tenore dei commenti mi ricorda tantissimo le puntate che possiamo fare su, ad esempio, la questione israelo-palestinese, oppure sull'Ucraina, sul Donbass. Allora, c'è chi dice i cosiddetti ribelli, tra virgolette, sono proprio i veri terroristi, sono al-Nusra, sostenuti, curati, finanziati da Israele e Stati Uniti, dite la verità, please. Così dice uno degli ascoltatori. Daniele Reneri, ribadiamo ancora una volta, come dire, il trionfo della sfumatura, il trionfo del grigio, se posso così dire. Sì, certo, voglio dire che al-Nusra sia una creatura di Israele e Stati Uniti, ecco, lì non posso andare alle sfumature, è una scemenza. In generale bisognerebbe guardare, diciamo, giorno per giorno cosa succede, perché le fazioni in campo sono veramente centinaia, più che centinaia, sono migliaia, ognuna ha una storia particolare, ognuna parla per sé, diciamo, e non si può generalizzare. Ecco, generalizzare, ossia far valere una regola unica, una definizione unica per tutti, è quello che ci ha portato in questa situazione qua, questa situazione di un paese che non esiste più, la Siria, un paese che è a rogo, sta bruciando tutti i giorni. Sì. Quindi ecco, direi di applicare, ci vorrebbe un po', come dire, di intelligenza e razionalità e di volontà di capire bene le cose come stanno andando. Ci sono molti che combattono e non vogliono, ovviamente, voglio dire, Nusra ha molti nemici interni per i gruppi ribelli. Sono scoppiati scontri, combattimenti negli ultimi mesi, quindi voglio dire, non sono tutti della stessa pasta, non sono tutti la stessa cosa, non sono tutti islamisti con il coltello fra i denti che vogliono ammazzare minoranze. Gli stessi ribelli nel 2013 hanno combattuto contro lo Stato islamico e li hanno cacciati, li hanno sospinti verso Raqqa, quindi diciamo che non si può fare di tutta l'erba un fascio, sarebbe veramente sbagliato. E lo stesso anche vale per l'altro fronte, perché diciamo che il governo siriano combatte di sottile, voglio dire, assedia città, toglie rifornimenti, bombarda in modo indiscriminato. Quindi ecco, ci vorrebbe un po' di discernimento quando si parla di un tema così complesso. Sono assolutamente d'accordo e peraltro devo ricordare, hai fatto bene anche a fare una menzione sul regime di Damasco, che non è certo esente da, come dire, colpe e né dal fatto di usare il pugno duro anche sui civili. Questo va ricordato, perché se poi continuiamo a dividere tra buoni e cattivi non comprendiamo cosa accade. Ma così, se il governo di Damasco avesse accettato le elezioni nel 2011 non saremmo arrivati a questo punto. È sempre una cosa che si dimentica, però ormai è troppo tardi anche per stare a parlare di queste, cioè ormai è un altro pianeta, quindi è inutile stare a parlare di quello che succedeva nel 2011. È anche vero che in quest'altro pianeta si fa sentire la voce, ma forse è molto poco raccontata anche la voce dei tanti civili siriani, no? Che scendono in piazza nelle strade. E invece molto spesso i media riportano solamente, no, l'aspetto più militare, l'aspetto appunto. Ma certo, questo è uno dei grandi problemi dei giornalisti, perché loro sono costretti soltanto a parlare di Stato Islamico, che questo effigie decapita, quando invece c'è una maggioranza silenziosa e inascoltata di civili che ovviamente non ha nessun interesse a mettere bombe o a farsi bombardare, che parla, ha delle aspirazioni, e soltanto che è presa in mezzo, che voglio dire, non è rappresentata. Così oggi la Siria viene raccontata soltanto attraverso queste categorie: islamiste col coltello fra i denti, aviazione russa, forze speciali americane, mentre invece c'è dentro tutto, ci sono milioni di siriani presi in mezzo che cercano soltanto un modo di ritornare a vivere una vita decente e un po' meglio di come era prima della rivoluzione. Però voglio dire, ormai stiamo parlando di utopie, nel senso che ci vorranno almeno 10 anni prima di riuscire a risolvere qualcosa, quel guazzabuglio, e dico guazzabuglio perché siamo in radio. grazie mille. Daniele Raneri, giornalista, inviato del Foglio, esperto di Siria, seguitelo su Twitter. Daniele Raneri, buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi. Allora, torneremo sulla questione siriana, non c'è dubbio, perché tra alcuni messaggi che francamente non capisco ancora, con questa storia delle foto del senatore McCain con i luogotenenti di al-Nusra, altro che discernimento, per favore, cerchiamo di essere seri, di quella cosa se ne è parlato 1000 volte, piuttosto ci sono suggerimenti, mi sembrano più interessanti. C'è chi ci chiede una mappatura vera e propria delle forze in campo, Stati Uniti, russi, sauditi, Hezbollah, iraniani, eccetera eccetera. Lo faremo sicuramente nei prossimi giorni, perché ripeto, quella cosa lì, ma come tanti altri teatri, è il trionfo delle sfumature e dei grigi. Non ci sono solo due fazioni, non ci sono i buoni, non ci sono i cattivi. L'intervento di Daniele Raneri credo che abbia restituito proprio questa complessità. 349-238-6666, questa era la lunga pagina tutta dedicata alla battaglia per Aleppo, che, lo ricordo, è ancora in corso, ve ne daremo conto, cruciale, lo avete capito, il destino di quel che resta della Siria dipende anche da questa battaglia. E adesso siamo quasi prima della pausa per l'informazione finanziaria, io però di corsa vi porto a Bangkok in Thailandia, perché facciamo una piccola anticipazione di quella che è la seconda pagina di oggi di Nessun Luogo Lontano. Negli ultimi 10 anni la politica thailandese si è giocata sullo scontro tra camicie rosse, supporter dell'ex premier Thaksin Shinawatra, e camicie gialle, vicine alla monarchia. Poi, a dominare la scena, è arrivato il verde delle mimetiche dei militari. Con un golpe messo a segno nel maggio 2014, il generale Prayut Chan-o-cha ha sciolto il governo e il parlamento, instaurando la giunta detta Consiglio Nazionale per la Pace e l'Ordine, con cui ancora oggi controlla il paese. Ieri in Thailandia si è votato un referendum per modificare la Costituzione, che consegnerebbe ulteriori poteri alla giunta militare. I primi exit poll mostrano che il 61,5% dei votanti ha detto sì alla riforma. L'influenza dell'esercito è destinata a diventare ancora più forte. La nuova Costituzione infatti prevede una modifica alla legge elettorale e soprattutto un Senato nominato per intero dai militari. Tutto questo mentre l'ottantenne re Rama IX sembra ormai incapace di mantenere il suo ruolo di garante dell'unità del paese. Dopo l'elezione del presidente pistolero Rodrigo Duterte nelle Filippine e la morsa di ferro del primo ministro Najib Razak sulla Malesia, con il trionfo dell'esercito al referendum thailandese nei governi del sud-est asiatico emerge sempre più una vena di autoritarismo. Questa è la breve istantanea di quello che sta accadendo in queste ore in Thailandia. Allora andiamo in diretta a Bangkok, dove c'è Alessandro Ursic, giornalista indipendente, vive a Bangkok e racconta la Thailandia, ma non solo, da anni. Buona giornata Alessandro, ben ritrovato a Nessun Luogo Lontano. Buonasera da Bangkok. Allora, la prima domanda è questa: lo spoglio è ancora in corso? Come siamo messi con le operazioni? Sì, lo spoglio in sostanza è già finito ieri sera, nel senso hanno annunciato i dati definitivi con il 94% delle schede contate, 61,5% dei sì alla Costituzione, quindi mancano dei dettagli magari dalle aree più remote. I risultati ufficiali definitivi dovrebbero arrivare mercoledì, ma la vittoria dei sì alla Costituzione non è in dubbio. Allora, non dobbiamo aspettare mercoledì per commentare quello che sta accadendo in Thailandia, però aspettiamo l'informazione finanziaria. Stai con me, Alessandro, e poi siamo di nuovo insieme a Nessun Logo. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Nessun Luogo. Nessun Luogo è lontano. Ben ritrovati, questa è la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, tutta dedicata al referendum che si è appena tenuto in Thailandia. Siamo in diretta con Bangkok, dove c'è Alessandro Ursic, giornalista indipendente che ben conosce e racconta il paese da anni. Prima però faccio un piccolo passettino indietro, perché al 349-238-6666 sono arrivati un sacco di messaggi sempre sul dossier, sul conflitto, sul teatro siriano. Vi rimando a una prossima puntata che faremo certamente in Nessun Luogo è lontano, ma almeno a un ascoltatore devo rispondere: perché in Siria non ci sono inviati? A me sembra la guerra meno documentata, perché andare in Siria e raccontarlo è estremamente pericoloso, perché chi parla arabo ovviamente ha un grande vantaggio, perché pochi giornalisti italiani parlano l'arabo e perché bisogna averla seguita da quando è iniziata la primavera araba. Tra questi c'è Daniele Reneri, ma non solo, che abbiamo contattato. Allora, torniamo sulla ampia pagina thailandese. Questo referendum sancisce una rinnovata importanza e potere dell'esercito, che però di fatto, da garante dei poteri, come poteva essere forse storicamente, lo abbiamo sentito dal nostro ritratto, diventa un potere, oppure il potere. Alessandro Ursic. Sì, in sostanza è un ritorno al passato. In Thailandia, diciamo, fino all'avvento del premier Thaksin Shinawatra, che dal 2001 in sostanza ha vinto tutte le elezioni che si sono tenute in Thailandia, lui o chi per lui. Prima di Thaksin, in sostanza, il sistema del potere in Thailandia era questo: chiunque venisse eletto, qualunque governo venisse formato, non era il vero padrone del paese. Il potere in Thailandia, in sostanza, da 70-80 anni è sempre nelle mani delle più grandi famiglie, del sistema burocratico, con i militari e in qualche maniera l'ambiente che gira intorno alla monarchia. Ma quando è arrivato a potere Thaksin, lo ha fatto sulla base di un fortissimo elettorato dal punto di vista numerico, che prima era stato trascurato, cioè le campagne del nord-est, e ha sempre battuto appunto l'elite di Bangkok e i monarchici anche del sud, semplicemente perché ha più voti. Ora però, con questa Costituzione, con questo sistema elettorale, soprattutto con la formazione di questo Senato interamente eletto dai militari, un Parlamento bicamerale, sì, qualsiasi governo verrà eletto in futuro non avrà in sostanza i numeri per governare, ci sarà sempre la mano dell'esercito dietro, nessun governo ostile, diciamo, all'establishment potrà essere formato, perché ci sarà sempre un potere dietro le quinte, in questo caso veramente sancito dalla Costituzione, che è assegnato in sostanza ai militari. È eccessivo parlare, usare il termine, il regime l'hai usato tu, ma è quasi una dittatura militare, o mi sbaglio? Beh, la dittatura militare esiste da 2 anni, perché dal colpo di Stato... Diciamo che è sancita costituzionalmente. Diciamo, no, allora, in qualche maniera il prossimo anno si dovrebbe tornare alle elezioni, o a fine 2017 o inizio 2018, a meno che poi magari possiamo parlare anche della successione reale, sì, e magari diciamo che c'è la possibilità che vengano anche rinviate, ma mettiamo che si vada ad elezioni, e in teoria si dovrebbe andare alle elezioni, a quel punto non si potrebbe più parlare di dittatura militare, però diciamo una democrazia controllata, guidata, dove in qualche maniera il governo eletto non comanda veramente, o comunque deve venire a patti con dei poteri dietro le quinte che eletti non sono, ma che rappresentano il vero potere nel paese. Insomma, situazione non facile, e anche il lessico in qualche modo si deve adeguare e rendersi un filo più complesso, appunto per fotografare questa situazione. Come, Alessandro Ursic, i cittadini thailandesi hanno vissuto questo appuntamento referendario? Allora, da una parte con grande apatia. Molte persone sembrano stufe delle divisioni politiche e sociali del paese e si sono distaccate dalla politica. Questo atteggiamento è anche favorito in sostanza dalla giunta militare, che adesso, ma anche in precedenza, i militari hanno sempre promosso un clima dicendo alla popolazione che i politici sono corrotti, disonesti e quindi non bisogna fidarsi dei politici. Quindi il thailandese medio, che non si interessa granché di politica, ha una specie di fiducia inculcata fin da piccolo nei militari. Quindi molti in qualche maniera si fidano dei militari e adesso vogliono la stabilità dopo un decennio di violenza, di divisione sociale, e quindi in sostanza lasciano che i militari governino il paese e non si sono neanche interessati molto, senza neanche sapere bene cosa stavano votando. In qualche maniera le percentuali di voto riflettono anche il referendum su una precedente costituzione di 9 anni fa, che poi è stata stralciata da questa giunta militare nel 2014, ma in qualche maniera chi vota per Thaksin Shinawatra ha votato no. Chi invece odia Thaksin Shinawatra, ce ne sono tantissimi, specie a Bangkok e nel sud, specie tra la borghesia e la classe medio-alta, ha votato sì. Ci possono essere anche delle persone, ma sono un po' la minoranza, che hanno votato sì sperando in qualche maniera appunto di raggiungere la stabilità, di tornare alle elezioni, tanto poi le regole si possono cambiare. In linea di massima il paese rimane diviso, e poi c'è una fetta appunto di persone che non si interessano granché alla politica, ma in qualche maniera, facendo così, fanno il gioco dei militari. Certo, certo. L'ultimissima domanda, Alessandro Ursic, prima di salutarti, ringraziarti e lasciarti al tuo lavoro, è come invece i media thailandesi hanno raccontato questo appuntamento referendario. È sempre interessante, in occasione di o elezioni o referendum, fotografare il panorama mediatico. Beh, i media thailandesi sono nelle mani dell'elite di Bangkok, quindi potete immaginare che in gran parte hanno fatto la gran cassa alla giunta militare. C'è da dire però che in sostanza fare campagna elettorale attiva, e in particolare per il no, era stato messo illegale. Oltre 120 persone sono state arrestate, quindi non c'era un dibattito pubblico, c'era semplicemente l'invito sempre più insistente nell'ultimo mese della giunta militare, e di conseguenza anche rilanciato dai media, di andare a votare, perché la giunta militare sperava in un'affluenza dell'80%, che non ha raggiunto, perché l'affluenza si è fermata a 55%, però in sostanza un dibattito non c'è stato e i media non lo hanno neanche promosso. C'è una specie di senso anche reverenziale che i temi più scottanti non vanno discussi. Ci sono mille risvolti anche con la situazione della successione reale, con il re che ha 88 anni, non solo 80, e che è malato in ospedale. Quindi c'è in qualche maniera il clima anche promosso dai media di lasciar fare i militari per il bene del paese, però appunto i media in questo paese non sono liberi, sono dei precisi interessi dietro di essi. Grazie mille, Alessandro Ursic, giornalista indipendente da Bangkok. Buona giornata, buon lavoro, alla prossima, Alessandro. A voi, grazie. E questa era la seconda pagina di Nessun Luogo Lontano, dedicata al referendum in Thailandia. Alessandro Ursic da Bangkok ci ha aiutato a comprendere meglio le peculiarità di questo appuntamento e le conseguenze che si avranno anche per il futuro del paese asiatico. 349-238-6666, sia gli sms che i whatsapp, twitter, Nessun Luogo 24, oppure Jampaz, facebook, cercateci. Nessun Luogo è Lontano, trattino Radio 24. La terza pagina di Nessun Luogo è Lontano è tutta dedicata alla Turchia. Sentite come risuonava Istanbul proprio ieri. Circa 1 milione di persone, anche se, come dire, c'è chi ha detto molte di più, c'è chi ha detto un po' meno, solito balletto delle cifre. I numeri della giornata di ieri, nella quale Erdogan ha chiamato i suoi sostenitori in piazza a sostenere lui, a sostenere il suo governo, a sostenere quel colpo di stato rintuzzato, quel suo tentativo, anzi molto molto ben attuato alla fine, quella sua difesa che lo ha così tanto rinforzato. I turchi hanno risposto e vi è stata una manifestazione. Se andate a guardare le foto, effettivamente incredibile, oceanica, c'è chi ha scritto. Sì, dicevo, c'è il balletto delle cifre, l'agenzia di stampa Anadolu ad esempio si è spinta a dire 3 milioni, però appunto. Quello che è certo, alcuni giornali anche italiani hanno riportato, sono state vendute 2 milioni e mezzo di bandierine, 1 milione e mezzo di cappellini, 5 milioni di bottigliette di acqua. Il trasporto pubblico è stato rafforzato con l'aggiunta di traghetti e autobus e per coloro che arrivavano da Ankara sono stati messi a disposizione 1000 autobus gratuiti, 13.000 persone impiegate durante la giornata e poi un imponente, come potete immaginare, dispositivo di sicurezza. Devo dire che questo apparato che si è mosso in questa maniera così efficace mi ha ricordato certe scene egiziane in cui i fratelli musulmani, quando ero a organizzare o di portare al voto i sostenitori, insomma, mettevano in campo una macchina organizzativa notevole. Vediamo se Marta Ottaviani, giornalista, la potete leggere sulla Stampa e Avvenire, è d'accordo con me. Marta, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori, bentrovati a voi. Allora, Marta Ottaviani, che questo lo possiamo dire, allora, ha dovuto lavorare il doppio, il triplo, perché sta per uscire, seconda metà di settembre, ma correggimi Marta se erro, il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia, è il tuo nuovo libro sulla Turchia, che ovviamente è incentrato sulla figura di Erdogan, e gli ultimi stravolgimenti, gli ultimi eventi chiaramente mi sa che ti hanno fatto fare qualche nottata di troppo. Manifestazione popolare di notevolissima portata. Marta Ottaviani, a chi ha parlato Erdogan? Quando c'è almeno 1 milione di turchi che ascolta il leader, sta parlando più a quel milione che è in piazza o sta parlando all'Europa? Ma allora, anzitutto sicuramente ci sono da evidenziare due componenti. La prima è quella della ricaduta interna. Erdogan vuol far capire ai possibili oppositori che in questo momento la Turchia è nelle sue mani. L'invito ai due partiti di opposizione, tutti tranne i curdi praticamente, che erano ieri sul palco con lui, era però anche finalizzato a fargli capire che d'ora in avanti loro ricopriranno solo un ruolo di comparsa all'interno della vita politica turca. E questa adunata oceanica serve invece a far vedere all'esterno che lui è un leader incontrastato che può contare su un favore popolare ormai pressoché a senso unico e che quindi, insomma, è un leader sicuro con cui l'estero, con cui l'Europa, gli Stati Uniti, la Russia e i vari interlocutori dovranno fare i conti senza potersi mettere in condizioni di superiorità. Allora, Marta Ottaviani, giornalista, La Stampa, L'Avvenire, ma anche il Reis, come Erdogan ha cambiato la Turchia, in uscita tra pochissimo, seconda metà di settembre. Stai con noi perché c'è l'informazione sul traffico e poi dobbiamo parlare di un paio di affilatissime armi sempre pronte che Erdogan tiene lì. Nessun luogo è lontano. Marta Ottaviani, giornalista esperta di Turchia, per commentare quello che è stato un evento storico, almeno dal punto di vista, come dire, della partecipazione popolare. Ormai, guardando la storia turca, se uno dice evento storico, insomma, deve sempre stare attento perché poi viene smentito continuamente con tutti gli eventi che si sono succeduti negli ultimi anni, appunto, in Turchia. Però quello che è certo è che ieri, come minimo, 1 milione di persone, c'è chi dice, agenzie di stampa vicine a Erdogan erano anche 3 milioni, si sono recate in piazza e hanno manifestato il loro sostegno a Erdogan. Marta Ottaviani ci stava facendo capire che da una parte c'è, come dire, un parlare alla nazione, un parlare ai propri cittadini, e dall'altra c'è anche un rivolgersi ai suoi partner o ai suoi amici e nemici esterni, dicendo: guardate che io sono pienamente legittimato qui nel mio paese e guardate che forza che ho. Questo per banalizzare estremamente il messaggio che ci è arrivato, tra gli altri, che ci è arrivato ieri. Stavo facendo riferimento a due affilatissime armi che sono sempre pronte nelle mani della Turchia. Uno è il dossier migranti, perché con quell'accordo Turchia-Europa, quello da 3 miliardi e mezzo di euro, vi ricorderete, tante trasmissioni da queste frequenze se ne sono occupate, è un dossier sempre molto caldo, con la questione anche della liberalizzazione dei visti. E due, la pena di morte. Perché dico pena di morte? Perché proprio ieri Erdogan, rivolgendosi ai cittadini turchi, ha detto che era pronto a reintrodurla se lo vorrà il popolo. Cerchiamo di analizzare questi due dossier che sono fondamentali. Marto Taviani, il primo, la questione migranti, che è una delle più formidabili leve elettorali che esistono al mondo. Sì, sicuramente Erdogan è convinto di avere proprio un asso nella manica di portata incredibile e di poter sottoporre l'Europa a tutti i ricatti che ritiene più opportuni. Non dimentichiamo che proprio in questo momento, proprio negli ultimi giorni, il ministro degli esteri Mevlut Cavusoglu ha detto sostanzialmente all'Europa: o ci liberalizzate i visti o noi facciamo saltare l'accordo. In realtà la Turchia non è nella posizione per dire una cosa del genere, perché la liberalizzazione dei visti proprio da accordo sarebbe venuta solo dopo la modifica della legge antiterrorismo. Legge antiterrorismo che non solo Erdogan non ha cambiato, dopo il golpe fallito dello scorso 15 luglio è stata addirittura irrigidita dallo stato di emergenza. Quindi ecco, credo che purtroppo difficilmente si troverà un accordo su questo aspetto. Ma un altro aspetto molto importante che voglio fare notare è che in realtà Erdogan sta usando l'arma dei rifugiati siriani in modo anche diverso. Proprio pochi giorni prima del golpe era stata pubblicata la notizia, proprio dichiarazioni ufficiali di Erdogan, dove lui si definiva pronto a concedere la cittadinanza turca ai siriani che vivono sul territorio. Sì. È un particolare non da poco, perché in regime di liberalizzazione dei visti a questo punto anche questi siriani, che l'Europa, a mio modo di vedere sbagliando, ha cercato di fare di tutto per tenerli fuori dalla porta, potrebbero invece varcare la frontiera a questo punto completamente legalizzati. In realtà questo rilascio ipotetico della cittadinanza ha in primo luogo una ricaduta interna. Il premier Yildirim ha detto che saranno 300.000 per il momento quelli elegibili ad assumere la cittadinanza, e sono tutti voti che servono a Erdogan nel caso in cui si votasse il referendum costituzionale per cambiare appunto la legge madre dello Stato turco in senso presidenziale, cosa che Erdogan sta cercando di fare da un po' di anni. E poi insomma 300.000 è un numero corposo, ricordiamo, è una goccia nel mare dei rifugiati siriani. Negli ultimi anni sono stati addirittura 6 milioni, di cui 2,5-2,7 nella sola Turchia. Però 300.000 comincia a essere, dal punto di vista elettorale, anche una certa leva, no? Assolutamente. Poi non dimentichiamo che durante le ultime elezioni, soprattutto le politiche di giugno e poi di novembre, le elezioni anticipate, si era diffusa la voce che erano state migliaia le cittadinanze siriane concesse pur di incrementare il bacino di voti dell'HP, che è il partito del Presidente della Repubblica. Il secondo dossier di cui mi parlavi, che è la pena di morte, sì, Erdogan sta usando questo motivo, questo argomento, per fare vedere all'Europa che lui non ha alcuna intenzione di sottostare alle condizioni di nessuno. Peraltro il Presidente, nell'intervista concessa alla RAI a Lucia Goracci, ha fatto presente che solo in Europa non è in vigore la pena di morte, che invece in molti altri paesi, Erdogan ne ha elencati alcuni accostandoli a mio modo di vedere anche insomma in maniera abbastanza impropria, ha detto che la pena di morte è ancora in vigore. Però insomma forse tralascia il fatto che la mancanza della pena di morte, la viura, diciamo, la contrarietà alla pena di morte, è uno dei capisaldi fondamentali dell'Unione Europea, e che proprio la Turchia all'inizio degli anni 2000 aveva dovuto rinunciarvi pur di intraprendere il cammino negoziale. Una sua reintroduzione vorrebbe veramente dire lo stop a qualsiasi tipo di trattativa, e c'è qualcuno comunque che in Europa questa cosa inizia ad auspicarla con forza. 349-238-6666, se avete domande o commenti per questi ultimi minuti in cui ci stiamo occupando della grande prova muscolare di Erdogan, che ieri ha riunito in piazza da 1 a 2, 3 milioni di cittadini turchi, appunto a Istanbul. Fra l'altro c'è il capitolo Mosca, Marta Ottaviani, perché domani c'è un incontro molto molto importante in Russia. Marta Ottaviani, l'abbiamo persa? Proviamo a recuperare Marta Ottaviani. Proviamo. Niente, sparita. Fatemi sapere. Allora, abbiamo ancora pochi minuti. Io faccio una piccola parentesi, se riusciamo intanto a ristabilire la linea con Marta. La piccola parentesi riguarda due aggiornamenti su due notizie che abbiamo seguito con particolare attenzione nella prima settimana di programmazione di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato vi abbiamo raccontato di Boko Haram, del nord-est della Nigeria, dove, vi ricordate, abbiamo sentito MSF, abbiamo sentito esperti, e si era aperto finalmente una serie di corridoi umanitari per portare aiuto a tutta la zona di Maiduguri nello stato del Borno. E poi quel conflitto tutto in seno, tutto dentro a Boko Haram, con quella doppia leadership, una che proveniva un po' dall'alto a guida ISIS, per semplificare, e poi quel leader storico Abubakar Shekau di Boko Haram, che quello è che era morto 10-15 volte, sapete, insomma, ferito più volte, si faceva solo sentire tramite messaggi auto, non si faceva più vedere. Ebbene, poche ore fa il potenziale ex leader di Boko Haram si è fatto rivedere in un nuovo video, e questo non capitava da tanto, e si fa risentire con toni ancora più aggressivi. La sensazione è che voglia dire: sono ancora io il nuovo leader, non c'è ISIS che tenga. L'altro piccolo aggiornamento, prima di tornare da Marta Ottaviani, che la siamo riusciti a ripescarla, riguarda l'Uganda Pride, il Gay Pride in Uganda, di cui vi abbiamo dato conto. Vi ricordate, venerdì vi davo conto di una raid della polizia che ha effettuato una ventina di arresti. Ebbene, le ultime parate pubbliche sono state sospese, e questo sempre per, come dire, una linea dura della polizia, che appunto vuole vietare qualsiasi legittimazione di quel movimento nel paese africano. E torniamo da Marta Ottaviani, con la quale, Marta, volevo brevemente, abbiamo pochi minuti, aprire il capitolo russo, no? L'asse Istanbul-Mosca, che si potrebbe aprire, riaprire. Sì, assolutamente. Il presidente Erdogan per primo ha parlato di una nuova era che inizia. È un asse quanto mai pericoloso da leggere in chiave squisitamente antistatunitense. Sostanzialmente Erdogan vuole usare la Turchia come sponda per acquisire una maggiore influenza in Medio Oriente, ma anche ma anche soprattutto per dare fastidio all'amministrazione che verrà dopo l'amministrazione Obama. Erdogan è convinto di poter giocare un ruolo saliente in questa circostanza e domani chiederà a Putin un impegno preciso, a patto che lui faccia pace con Assad, perché si contrasti la formazione di uno Stato curdo in Siria. È una situazione estremamente pericolosa, soprattutto se ci si concentra anche su un aspetto di politica interna turca. Durante l'ultimo golpe fallito sono stati rimossi, come avrete detto tante volte in trasmissione, come avrete letto sui giornali, centinaia di generali. Sì. Ecco, questi generali sono stati rimpiazzati con schiera dell'esercito appartenenti ai reparti più ultranazionalisti e anti-NATO. Quindi io direi che veramente non solo è abbastanza importante che un paese membro della NATO sostanzialmente si metta a fare il bello e il cattivo tempo come meglio ritiene con Mosca, ma soprattutto poi i presupposti dai quali parte questa nuova alleanza, che disgraziatamente non lascia veramente presagire nulla di buono. Ecco, tu citavi peraltro il dossier curdo, che è veramente la vera spina nel fianco, no, di Erdogan. Su quello credo che non vi siano assolutamente margini di contrattazione, se è vero che ad esempio neanche il partito dei curdi è stato invitato ovviamente alla manifestazione di ieri. Quel dossier lì rimane off limits, no? Il partito curdo è tagliato praticamente fuori dalla vita politica. Nel sud-est del paese ormai da un anno stanno andando avanti scene di una crudeltà e di una guerra veramente difficilmente descrivibili. Inoltre bisogna anche ricordare che una legge fatta approvare nei mesi scorsi ha temporaneamente sospeso l'immunità di alcuni parlamentari, ma sono soprattutto parlamentari curdi. In testa il premier Selahattin Demirtas, che è il leader curdo, proprio sì, il segretario dell'EDP, che era considerata un po' una figura emergente sulla scena politica turca, questo per fare capire come Erdogan stia cercando di far fuori tutti quelli che gli possono dare fastidio. Grazie mille Marta Ottaviani per questa analisi, questo racconto. Nell'ultima pagina di Nessun Luogo Lontano era però partito da un dato di fatto che è assolutamente incontrovertibile: da 1 a 3 milioni di cittadini turchi si sono recati in piazza, anche supportati da un'ottima logistica, come dire, preparata all'uopo, e hanno dato sostegno a Erdogan, il quale sta utilizzando evidentemente questo sostegno per una nuova riaffermazione anche in ambito internazionale. 30 secondi, Marto Taviani, prima di salutarti e ringraziarti, se riesci, c'è un piccolo tassello che abbiamo dimenticato, che è il grande nemico invisibile oltreoceano, Fethullah Gülen. Vi sono stati arresti anche di suoi sostenitori su suolo turco. Come definire questo capitolo, Telegrafica? Ma allora è forse l'ultimo capitolo, ma non ne sarei sicura, della guerra, di una guerra tra le due grandi ali della destra islamica turca che va avanti da decenni. Gülen aveva sicuramente infiltrato tutta l'amministrazione statale, ma non ci dimentichiamo che dal 2000 al 2010 Erdogan e Gülen sono andati a braccetto per rendere inoffensive ed eliminare gli apparati più laici dello Stato. Quindi adesso si sta assistendo a un regolamento di conti che, senza esclusione di colpi, che in questo momento sembrerebbe essere vinto da Erdogan. È una guerra nella quale non ci sono né buoni né cattivi, ci sono due soli cattivi, di cui uno dei quali in questo momento Erdogan sta vincendo. Grazie mille Marta Ottaviani, leggetela su Stampa e Avvenire, se volete Twitter Marta Ottaviani, e poi da metà settembre andate a cercare in libreria il suo Il Rais, come Erdogan ha cambiato la Turchia. Marta Ottaviani, grazie mille, buona giornata e buon lavoro. Buon lavoro a voi e buona giornata. E una buona giornata a voi, cari ascoltatori, che siete stati con noi in questa oretta di Nessun Luogo è Lontano. I saluti li porgo anche a nome di Antonio Tali, Eleonora Aragona, Silvia Mannati, che hanno scritto con me questa puntata, e Andrea Roccabella, che le ha dato il ritmo giusto. L'appuntamento è con la replica ore 21, oppure domani alle ore 16, quando di nuovo Nessun Luogo sarà lontano. Un saluto da Gianpaolo Musumeci.